wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Buona domenica a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio da Gege Telesforo. Questa è la nuova edizione weekend della nostra prova del suono. Ormai per affrontare la stagione primavera-estate abbiamo traslocato al weekend. Ieri abbiamo dato il via a questo nuovo appuntamento e oggi invece due ore di grande musica. Infatti torneremo poi alle 19 per parlare in modo particolare dell'International Jazz Day, che verrà celebrato anche quest'anno il 30 di aprile in tutto il mondo. Organizzazione da parte dell'UNESCO, che anche a Roma ha riunito alcuni fra i musicisti più importanti del jazz italiano in un bellissimo concerto all'Auditorium Antonianum, e ne parleremo quindi a partire dalle 19 con Paolo Petrocelli dell'UNESCO e Luciano Vanni, editore e direttore responsabile della rivista specializzata Jazzit. Ma veniamo a questa ora che da affrontare insieme. Fra pochissimo apparirà su questi schermi la bellissima e bravissima vocalist napoletana Letizia Gambi, che sta ottenendo successo anche negli Stati Uniti in virtù di questa nuova pubblicazione intitolata Introducing Letizia Gambi, album prodotto dal batterista producer Lenny White, che ha riunito intorno alla vocalità di Letizia un cast stellare con Gato Barbieri, Ron Carter, Chico Rea, Antonio Faraò, Gil Goldstein, Max Ionata e via dicendo, ma ne parleremo fra pochissimo proprio con Letizia Gambi. Darei il via alla puntata di oggi introducendo alcuni appuntamenti, gigs, concerti e eventi importanti da non perdere nei prossimi giorni, e per fare ciò ho chiesto la collaborazione del nostro redattore Francesco Tromba, che mi ha portato un bel foglietto carico di informazioni. Buon pomeriggio Francesco, benvenuto. Qual è stato il criterio di selezione per i concerti? Ho scelto innanzitutto quello che potrebbe piacere sia a me sia agli ascoltatori di Soundcheck. E mi sembra un criterio molto giusto. Tu sai che i nostri appassionati di musica hanno il palato molto fine. Sì, esattamente. Allora, diamo subito gli appuntamenti, vediamo in Italia che cosa c'è nei prossimi giorni. Bene, per quel che riguarda il jazz, un doppio appuntamento a Milano il 15, perché c'è Enrico Rava al Blue Note, e poi invece al Teatro Nazionale Gino Paoli e Danilo Rea, quindi questo martedì 15. Franco D'Andrea invece il 16 aprile a Pordenone al Teatro Comunale Verdi, e poi ci spostiamo a Roma il 16 aprile per quel che riguarda il pop e rock, perché ci segnali la presenza all'Init di Aisha Burns. A te piace? Sì, a me piace molto, soprattutto il suo ultimo album è molto bello. L'esibizione live sicuramente è una sicurezza. Allora, 15 aprile, giusto? No, 16 aprile a Roma all'Init Aisha Burns. Facciamo un salto sugli appuntamenti all'estero, ci spostiamo in Europa, ci spostiamo il 14 aprile a Berlino, bellissima sala Philharmonic, protagonista il vincitore del Grammy Award di quest'anno per il jazz vocale, Gregory Porter, nostro amico. Ci spostiamo adesso a Parigi. Che cosa c'è a Parigi? C'è John Mayall il 18 di aprile al New Morning, anche questo è un club molto importante a Parigi, senz'altro da vedere il concerto di John Mayall. Chiudiamo con le esibizioni americane per tutti gli amici che si troveranno a New York, per esempio la prossima settimana, per il jazz al Jazz Standard la Mingus Big Band, poi c'è B.B. King al Count Basie Theater nel New Jersey, quindi a un passo da New York il 16 aprile, e Rufus Wainwright a New York il 15 aprile. Quindi questi sono gli appuntamenti che ci ha segnalato. Guarda qui, c'è anche il 17 aprile a New York alla Town Hall la bellissima e bravissima Carla Bruni. Sì, soprattutto bellissima, direi. Soprattutto bellissima, tu andresti a vederla Carla Bruni, eh? Sì, anche musicalmente abbastanza dotata, diciamo. Abbastanza dotata, hai detto una cosa bella. Bene, Carla Bruni il 17 aprile a New York, ma passiamo a una donna che vocalmente è dotata nel vero senso della parola. Per dare il via alla musica, al soundcheck di oggi, arriva Diane Reeves con 32 Flavors, brano scritto da Annie DiFranco, eccellente rocker, nella versione quasi R&B realizzata da Diane Reeves per la Concord Records, album nuovissimo, si intitola Beautiful Life e apre il soundcheck. Grazie a Francesco Tromba. Tromba di nome di fatto? No. Va bene, non fa niente, scusami. Squinch your eyes and look a bit closer. I'm not between you and your ambition. I am a poster girl with no poster. And I am 32 flavors and thin some. And I am beyond your peripheral vision. So you might wanna turn your head. Because one day you're gonna get hungry and eat all. Soundcheck, il suono della musica. Sì, pronti per il soundcheck e come annunciato abbiamo la nostra bellissima ospite, napoletana di nascita, internazionale per quanto riguarda il suo percorso artistico, credo abbia fatto più o meno di tutto nella vita da artista, so che dipinge molto bene, che ha fatto la ballerina, che ha cantato e lavorato nei musical e è approdata a una bella casa discografica italiana che si chiama Giando Music con una produzione artistica affidata al signor Lenny White. Tanto per ricordare chi è Lenny White, non solo è un eccellente batterista che io ho seguito a lungo da musicista, un musicista che è diventato anche un producer che ha portato a casa diversi Grammy Awards per aver realizzato album importanti, lavorando con Chick Corea ha prodotto un bellissimo disco di jazz negli anni 80 con Chaka Khan come interprete, insomma parliamo di un colosso della musica che è rimasto affascinato dalle virtù artistiche e vocali, ma credo anche, come dire, l'occhio vuole la sua parte e quindi, mia cara Letizia Gambi, benvenuta al Soundcheck, sono molto contento di ospitarti qui da noi. Grazie mille per avermi invitata, ciao. Allora, intanto raccontami come è nata questa collaborazione con Lenny White, come hai conosciuto questo grande musicista, questo eccellente producer e come mai si è innamorato della tua vocalità e forse anche del tuo aspetto fisico, perché lo dicevo, l'occhio vuole la sua parte, no? No, non si è innamorato del mio, credo proprio che non si sia innamorato del mio aspetto fisico, anche perché è come se fosse oggi, è come se fosse un mio secondo papà. Lui si è appassionato a quest'idea che io ebbi di diffondere la cultura partenopea italiana mediterranea con il jazz che ho sempre amato e da quell'idea è nato poi tutto. Gli proposi questa cosa, anzi gli chiesi un'opinione su quest'idea che avevo al Blue Note una volta nel 2009, quando lui era in tour con Chick Corea e Stanley Clark, e lo conobbi tramite una conoscenza, un manager americano che voleva lavorare con me e mi parlò estremamente bene di Lenny, mi mise poi in contatto, una serie di coincidenze veramente molto da film, e gli mandai un brano che era un mio arrangiamento ma fatto proprio drum and bass e tradotto in inglese, che poi ti dirò, e gli piacque e da lì abbiamo cominciato a lavorare e poi il prodotto è questo qua. Eh sì, un prodotto che coniuga la tua origine napoletana, quindi si sentono le atmosfere mediterranee filtrate dalla conoscenza musicale di Lenny White, grande maestro del jazz contemporaneo, ma ha suonato di tutto dal funk alla fusion, che quindi, affascinato dalla tua vocalità e da questa bellissima idea, ha deciso di produrre artisticamente questo album. È tra l'altro un album importante perché vedo nomi meravigliosi, musicisti che forse altri artisti ci mettono una carriera a incontrare, e quindi mi sembra un album importante per te. Sì, è un sogno, è un sogno. Tuttora ti giuro che guardo la copertina qualche volta e dico: ma sono io, perché effettivamente ci sono. Io ho fatto la scuola di jazz e alcuni di questi musicisti, Ron Carter, ancora oggi quando lo vedo mi viene un colpo al cuore, perché è un musicista che rappresenta la storia del jazz, è uno dei miei idoli, Chick Corea, Gatto Barbieri, per me io li vedevo sui dischi, e sapere che hanno abbracciato questo progetto, hanno suonato anche, onestamente, noi eravamo low budget, cioè hanno partecipato per il piacere di partecipare, onestamente. Questa mi sembra la cosa più importante e la cosa più bella, quindi grandissime star, da Gato Barbieri col suo sax tenore, Ron Carter il suo contrabbasso, Chick Corea al pianoforte, Gil Golsen, che poi è uno degli arrangiatori più importanti della storia della musica degli ultimi anni, e la partecipazione di Wallace Rooney e musicisti italiani del calibro di Antonio Faraò, Max Ionata e tutti gli altri, e quindi anche Lenny White. Fra gli arrangiamenti di brani tratti dal repertorio napoletano e rivisitati da Lenny White, però ci sono anche delle composizioni originali. Quindi, per introdurre Letizia Gambi qui al soundcheck di Radio 24, da questo album che si intitola Introducing Letizia Gambi, come direbbe Lenny White, ho scelto un brano, una composizione originale scritta a quattro mani da Letizia e Lenny White. Il brano si intitola A Time, e quindi benvenuta Letizia al soundcheck di Radio 24. Album recentissimo intitolato Introducing Letizia Gambi per Giando Music, produzione artistica di Lenny White, con nostra ospite al soundcheck di oggi la bravissima Letizia, che adesso ci racconterà come ha vissuto i suoi primi anni a Napoli con la sua famiglia. Tu vieni da una famiglia di veri appassionati di musica, quindi qual era l'atmosfera che vivevi a casa? Beh, sì, mia madre ha sempre cantato e ha avuto la possibilità di diventare, di tentare la carriera di cantante, ma i miei nonni erano un po' restii, anche perché suo fratello, mio zio, è un tenore lirico professionista, ha lavorato in tutto il mondo e era un po', diciamo, ha un po' bloccato la cosa dicendo che il mondo della musica era pericoloso, lo spettacolo. Quindi mia mamma ha sempre cantato alla fine in casa e io sono cresciuta ascoltando lei cantare tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Che cosa cantava mamma a casa? Mamma cantava i pezzi napoletani classici, qualche pezzo magari appunto tratto da opere e operette, e poi quello che le piaceva, tendenzialmente comunque cose italiane, mentre mio padre ascoltava il jazz. E poi l'altra componente è quella che ovviamente da una classica famiglia napoletana, con tutti, mio nonno suonava il mandolino, mio zio il cantante, quello lirico suona il piano, suona la chitarra, passavamo tutte le feste insieme organizzando, ma cose cioè sere da tedeschi, cioè anche se siamo napoletani, facevamo queste cantate di pezzi napoletani antichi, e io li ho imparati. Tra l'altro, il mio repertorio napoletano è stato costruito a casa, ho studiato tutto, ho imparato tutto con la mia famiglia di fondo. E tutto questo magari la domenica subito dopo pranzo, visto che oggi è domenica, dopo aver mangiato un bel piatto, che ne so, di spaghetti e a vongole, il ragù napoletano, salsicce e friarielli, partivano le jam session casalinghe, così? Praticamente sì, assolutamente. Allora, fra gli artisti che tu hai ascoltato da bambina, quali erano quelli che hanno in qualche modo formato il tuo background musicale? Allora, prima di approcciare al mondo jazzistico, sicuramente uno di quelli che mi ha sempre affascinato è Stevie Wonder. Perché? Beh, perché per la sua vocalità, per le composizioni che ha scritto, per il suo talento nell'essere polistrumentista. Quindi una di quelle cose che quando scopri non ti sembra vero, quando sei un ragazzino, che uno possa suonare tutti gli strumenti di un brano, e perché comunica tantissimo quando è sul palco, nei live. Eh sì, e poi Stevie Wonder da sempre dimostra un aspetto melodico fuori dal comune, un po' come le canzoni napoletane, le melodie napoletane sono bellissime, e quindi capisco il fatto che ti piaccia così tanto Stevie Wonder, e lo devo ammettere, anche per me è uno dei più grandi artisti esistenti. Allora ascoltiamo Stevie Wonder da una composizione che non fa parte del repertorio proprio della prima era di Stevie Wonder, una composizione abbastanza recente, diciamo intorno al 2000, si intitola From the Bottom of My Heart, e viene fuori il suono dell'armonica di Stevie, la sua vocalità, l'aspetto melodico del quale parlavamo, e poi insomma è un nome, un marchio, una garanzia. Stevie Wonder al soundcheck di Radio 24. Me and Mark, Soundcheck. Il suono della musica. Letizia Gambi è ospite del Soundcheck di Radio 24. Letizia ci ha già raccontato come è avvenuto l'incontro con il suo producer artistico Lenny White, ma prima di ascoltare un altro brano tratto da questo Introducing Letizia Gambi, con questo popò di artisti che hanno affiancato la vocalità di Letizia in studio di registrazione, ho notato, leggendo la tua biografia, che tu sei anche una brava disegnatrice, cioè perlomeno il primo passo è stato con la matita in mano. E poi hai anche lavorato nel musical. Sì, ho studiato musical quando avevo 14 anni, sono andata a studiare musical a Londra e ho fatto parte di qualche cast, di diverse cose. Ho fatto una cosa carina a Milano, ero Anita in West Side Story di Bernstein. Quindi in inglese? Sì, anche se questa era una versione dove non c'erano i dialoghi, era tutto soltanto musicale, per cui era ovviamente cantato in inglese, perché non l'ho neanche pensato che c'era in italiano, mi ero completamente dimenticata. Sì, in inglese. Tu canti in varie lingue anche in questo album, dallo spagnolo all'italiano, e il napoletano viene fuori, che quella è una lingua, il napoletano, eh? Assolutamente. E naturalmente l'inglese, quindi una formazione assolutamente internazionale. Sì, diciamo sì, assolutamente. Il napoletano è una lingua, tra l'altro, che agli americani piace tantissimo, sebbene a volte facciano fatica a capire quale è italiano e quale è napoletano. Quando poi ho spiegato a Lenny la differenza del suono e come il napoletano possa avere swing, cosa che l'italiano non ha, è impazzito, basta, voleva sentire solo i pezzi napoletani, ed è stato fantastico perché ho cominciato a mandarli di tutto di più, ed è stato uno scambio culturale musicale che mi ha dato grosse soddisfazioni. Sì, e poi ti sei divertita anche a rivisitare alcuni classici della canzone napoletana, certamente un'operazione un po' ardita, perché credo che questo tipo di produzione e divisione l'abbia avuta negli ultimi anni il mio amico Renzo Arbore, che ha portato la canzone napoletana nel mondo rivisitandola ma non stravolgendola completamente. Invece qui il tocco internazionale di Lenny White, in qualche modo negli arrangiamenti, ha proposto qualcosa di diverso, per esempio in questa canzone intitolata oggi My Town per questo album, ma il brano in origine è Carmela di Sergio Bruni. Questo è il brano, tra l'altro, che ha dato origine a tutto il progetto. Avevo un giorno, mi trovavo a Ischia in vacanza, era notte, e stavo ascoltando da lontano qualcuno che, non so, da un locale, cantava chitarra e voce Carmela. Carmela è un brano bellissimo dedicato a Napoli, perché Carmela appunto è il nome di una donna, ma è la metafora per parlare della città. Ed è un brano che mi è sempre piaciuto molto. E mi ricordo che guardavo le stelle e a un certo punto mi dissi: io voglio tradurre questo pezzo in inglese, mantenendo inalterato il significato delle parole, perché è bellissimo, per me da napoletana, e voglio riarrangiarlo in un modo che possa essere un pochino più fruibile per un pubblico internazionale. E mi misi a fare questa traduzione, che è letterale, che poi venne approvata dagli eredi di Sergio Bruni e Paloma, quindi l'abbiamo ridepositato, eccetera, eccetera. E fu poi la prima cosa che mandai a Lenny per spiegargli qual era questa mia idea di diffusione. E fondamentalmente, ti devo dire la verità, l'arrangiamento non è tanto distante da quello, ritmicamente, da quello che poi avevo sottoposto io a lui. Ed è quello che ha dato origine a tutto, ed è uno dei brani per me veramente significativi, perché ha dato nascita alla cosa. Insomma, ci sono un sacco di musicisti che eseguono questo brano, e anche un quartetto d'archi, credo. Sì, ma la cosa carina, cioè la chicca che possiamo raccontare, è che Lenny ha registrato la batteria di questo brano a casa di Miles Davis. Perché, oh mamma mia, non lo sapevi questo? Perché praticamente il nipote di Miles Davis, che è un batterista che si chiama Vince Wilburn, che è un caro amico di Lenny, un caro amico mio, vive a Los Angeles nella casa che era di Miles, e io e Lenny componiamo, decidiamo tante cose via conference call su computer, eccetera. E quel giorno stavamo pensando all'arrangiamento e gli venne quest'idea, questo pattern, questa cosa, e mi disse: no, devo registrarlo, aspetta. Per cui lì c'è uno studio, ovviamente, e infatti nel disco, nel libretto, c'è il ringraziamento a Vince, però non abbiamo scritto che era a casa di Miles Davis, ma per me il fatto che fosse registrato lì è ancora più carino. Allora sentiamo, oltre alla voce di Letizia Gambi, il suono di questa batteria registrata a casa di Miles Davis per questa versione contemporanea di Carmela, oggi My Town, qui Letizia Gambi al Soundcheck di Radio 24. My time. My Town, questa è la versione internazionale della Carmela, scritta da Sergio Bruni, da questo album intitolato Introducing Letizia Gambi. Letizia Gambi è nostra ospite. Adesso vorrei chiederti una cosa: hai fatto sentire questa versione ai tuoi amici e ai tuoi colleghi napoletani? Perché i napoletani sono molto gelosi e molto legati alle versioni originali. Ascoltare Carmela con questa atmosfera, come è stata accolta? Dunque, devo dire che è stata accolta molto bene, poi soprattutto nei concerti live, dove la presentiamo in un modo un po' diverso dal disco, la gente è contentissima. Una cosa che ho fatto ultimamente, ho fatto un concerto al Festival Jazz di Chiasso e mi è venuta un'idea, siccome non ero in un posto con un pubblico che ovviamente a Napoli tutti conoscono Carmela, a Chiasso un po' di meno, e quindi ho fatto una cosa con Fabio Zeppetella, che mi accompagnava alla chitarra, bravissimo chitarrista. Abbiamo accennato, prima di fare la mia versione di My Town, abbiamo accennato a una strofa e ritornello del brano chitarra e voce come era in originale, per far capire qual era il lavoro che abbiamo. E la gente è impazzita, non me l'aspettavo, io l'ho fatto tanto per fare, ma la gente è contentissima, anche gli svizzeri sono venuti, ma che bello, ma che bello, ma che bello. Quindi devo dire che fino ad oggi è andata bene, poi chiaramente c'è chi apprezza di più la versione originale, che io amo, però questa è stata una cosa, almeno è mia, è particolare. Allora, vediamo che cosa hanno detto i tuoi compagni di avventura. I compagni, quando parliamo di Ron Carter parliamo di un grande maestro. Ron Carter dice: è stato veramente bello suonare con e per una cantante che sa davvero cantare. Gil Goldstein, arrangiatore, tra l'altro ha preso anche un Grammy Award per un arrangiamento quest'anno. Lenny White e Letizia Gambi hanno creato l'indirizzo musicale più trendy di Napoli, un incrocio tra la musica napoletana e il jazz. E poi c'è un altro complimento, e questo mi ha molto colpito. Questo signore abbastanza famoso dice: Letizia Gambi is a stunning vocalist, nel senso che è una cantante stupenda. Adesso non so se il signor Sting si riferiva alla tua caratura artistica o anche alla tua fisicità, perché lo dicevamo, è una cosa che non guasta il fatto di salire su un palco e di sentire una bella voce e di vedere anche una bella persona. Innanzitutto grazie. Prego. Allora, anche io sono rimasta molto colpita quando il signor Sting ha rilasciato questa dichiarazione. Noi gli abbiamo sottoposto il disco, lui sapeva che stavamo lavorando a questa cosa, anche perché anche lui è un amico ed ha iniziato in un certo senso con i Return to Forever e Lenny White, perché lui aprì un concerto dei Return to Forever, che disse, tra l'altro scritto anche sul suo libro, che gli cambiò la vita e la prospettiva sulla musica. E quando seppe, tramite un'amica musicista che abbiamo in comune, e tramite Lenny che stavamo lavorando a questa cosa, si dimostrò molto interessato e gli volevamo mandare, questa è una cosa che devo dire. Dilla, dai, sei napoletana, ti devi sfogare, dai. Grazie, gli volevamo ovviamente mandare il disco e lui ha detto: no, l'ho già comprato. Ma che meraviglia, sono invidioso. Allora, visto che parlavamo di Sting, ascoltiamolo nella versione live di un classico del suo repertorio grintosissimo, Set Them Free, Sting al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Non ho una buona pronuncia napoletana e infatti, pur avendo militato a lungo nell'orchestra italiana di Renzo Arbore, girando il mondo e proponendo le canzoni napoletane, Renzo non mi ha mai affidato una melodia napoletana, proprio perché la mia pronuncia napoletana è pessima, giustamente. E quindi Apocondria, come vedi, mi viene quasi in inglese, Apocondria di Pino Daniele, rivisitata questa canzone bellissima scritta da Pino, dalla nostra Letizia Gambi, nostra ospite, proprio per presentarci il nuovo progetto Introducing Letizia Gambi, è quindi un omaggio da parte tua a un grande napoletano, un grande autore, un meraviglioso compositore come Pino Daniele. Assolutamente sì, che ha segnato. Vai. Scusami, no, fammi sentire la pronuncia esatta di apocondria. Apocondria. Sì, poi dipende quanto sei arrabbiato, quanto sei, però è apocondria. Diciamo la traduzione di apocondria. La traduzione di apocondria non è facile, perché c'è chi la paragona alla saudagi, è una sorta, è un mix tra, è quella cosa che c'hai qua sul petto, quella nostalgia, malinconia, sì. Sì, dicevi la saudagi brasiliana. Esatto, è quella cosa lì che non riesci quasi a spiegare, che prende un po' tutti noi, e che effettivamente, come tante parole napoletane, non hanno una traduzione facile immediata in italiano. È un brano molto bello e rappresenta un autore che per me è stato un punto di riferimento, soprattutto quando poi mi sono trasferita da Napoli al nord, e come tu ben sai, quando manchi da un posto, quel posto ti manca ancora di più, e quindi ti senti ancora più legata, ed è quello che poi è successo a me con le mie radici. E Pino Daniele, con la sua produzione, soprattutto per quanto mi riguarda, fino all'album del 1990, quello con Sicily, è stato tutto il suo repertorio, mi ha sempre accompagnata. Sei napoletana, ma sei un'artista internazionale, sei sempre in giro, in viaggio a destra e sinistra, agli Stati Uniti, Inghilterra, in Svizzera, Italia, ma sei napoletana. Quindi quando torni a casa, come ritrovi la tua città? La città bellissima, un po' sotto l'occhio del ciclone in questo momento per tanti motivi, come vedi la tua Napoli? Io sono una romantica e sono fortunatamente, con il lavoro da artista, come ben sai, a volte puoi un po' estraniarti da quelli che sono i problemi quotidiani della città. Per cui, siccome io ne sono profondamente innamorata, cerco sempre di vederla con il cuore e basta, cerco sempre di mettere da parte tutti gli aspetti negativi che ci sono, ma come poi ci sono anche in tante altre città. Sono nostalgica e quindi vedo Napoli comunque come la voglio ricordare io e come fa piacere a me, mi dispiace dirlo, però mi sento più felice così, e sono sempre, quando vado a Napoli ci sono delle persone che mi incontrano e mi dicono: sei stata a Napoli? Si vede negli occhi. Ah sì, ti illumini d'immenso, Napoli fa questo effetto, sì, città meravigliosa, io la visito sempre con piacere, poi ho tantissimi amici, tantissimi musicisti, è una città che è sempre una sorpresa, no? Ci sono sempre delle cose da fare e bisogna sempre andarsele a ricercare, e poi si mangia benissimo. Assolutamente, io sono un amante della cucina, del cibo, mi piace cucinare, mi piace mangiare, e sì, a Napoli è speciale. Ah, quindi ti piace cucinare? Cioè quando sei a casa ti metti lì e fai cose napoletane? Assolutamente sì, è una cosa che mi rilassa, mi fa piacere, a volte mi chiamano e mi dicono: dai, vieni a cucinare per 10, io sono felicissima, cioè mi piace. Però. Tipo, dimmi due specialità. Ma fondamentalmente non è proprio una specialità, però vabbè, ovviamente la parmigiana di melanzane alla napoletana la faccio, piuttosto che la pizza, vabbè, mio padre è un grandissimo esperto di pizza, ormai fa pane, pizza, taralli, no, i miei genitori abitano a Como, ma a casa mia tutti i sabati si fanno almeno 7-8 tipi di pizza, ed è una cosa che per me è... Allora facciamo una cosa, prendiamo un appuntamento, ci diamo un appuntamento a casa dei tuoi, così ci facciamo una bella mangiata, mi fai assaggiare questa parmigiana di melanzane e poi ci facciamo una bella suonata tutti insieme. Madonna, mi piacerebbe molto, e sono sicura che mio padre, che è all'ascolto, è già pronto. Grazie a Letizia Gambi, grazie, ti auguro successi, ti auguro di divertirti con la musica e nella vita, e ti lascio proponendoti qualcosa che forse non conosci, una band che si chiama Snorky Puppy, band newyorkese, che ha come leader questo bassista giovanissimo, Michael League, formidabile arrangiatore, che ha riunito una band molto numerosa qui dal vivo, da un album intitolato Family Dinner, con la partecipazione della vocalist Malika Tyrolean, in un brano intitolato I'm Not The One. Snorky Puppy e Malika Tyrolean chiudono la prima parte del soundcheck, noi torniamo alle 19 per parlare dell'International Jazz Day con Luciano Vanni, responsabile, direttore e editore della rivista Jazzit, e Paolo Petrocelli dell'UNESCO. Festeggerai il 30 di aprile l'International Jazz Day, Letizia? Sicuramente, non ho ancora progetti, però sì, sì. Allora, Snorky Puppy, grazie Letizia, un abbraccio forte. You said I wasn't ready. get yourself a baby. You said I'm a selfish and always gone with my friends, yeah. Soundcheck. La musica della settimana.